piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Si chiama Emma, ma è già stata ribattezzata la bimba venuta dal passato, perché la piccola è nata lo scorso 25 novembre a Knoxville, in Tennessee, da un embrione che era stato congelato 25 anni fa, il 14 ottobre del 1992, e cioè quando la sua futura madre aveva 18 mesi. Potevamo essere amiche, le migliori amiche, ha detto la giovane mamma, oggi 26enne, sorpresa ma non troppo quando ha conosciuto la storia dell'embrione che le era stato impiantato lo scorso marzo. Volevo solo un bambino, ha detto, poco importa che fosse un record, perché se la vicenda solleva interrogativi bioetici, segna in effetti un record scientifico. Emma è la bambina venuta al mondo dall'embrione più longevo della storia, creato attraverso la fecondazione in vitro da un'altra coppia anonima e poi lasciato in deposito. Il precedente era di 20 anni. La famiglia Gibson voleva dei figli, ma la fibrosi cistica aveva reso sterile il marito. Da qui la scelta di rivolgersi al National Embryo Donation Center, centro specializzato del Tennessee. Dagli embrioni conservati nei loro laboratori a oggi sarebbero nati 686 bambini. La donna è risultata idonea all'impianto. Quasi 9 mesi dopo e 20 ore di travaglio è nata la piccola Emma. Chi è per voi Emma? Per me è una bambina come un'altra. Si vedono le foto in internet. Sta lì, prende il latte al biberon dalla sua mamma, anche se quando lei in qualche maniera è un progetto che in potenza è un essere umano, la mamma aveva un anno e mezzo, camminava a quattro zampe. Eppure Emma già esisteva. Esisteva Emma, esisteva il blastocisti di Emma, esisteva l'embrione di Emma. Esisteva comunque una cosa messa sotto ghiaccio da 25 anni che, se innestata dentro una donna, diventa Emma. Mi basta questo, non voglio entrare adesso assolutamente in disquisizioni di tipo bioetico sulla nascita della vita, voglio solo riflettere con voi sul fatto che dobbiamo cominciare a riconsiderare quelle che noi pensavamo le leggi intaccabili della natura in maniera diversa. Ora, mi sono brevemente documentato, in Italia c'è una legge per cui gli embrioni congelati restano congelati per sempre. Nessuno sa cosa se ne farà. Una donna congela un numero di embrioni per fare dei tentativi di rimanere madre, ci riesce, gli altri rimangono in una grande banca, in una biobanca, chiamiamola così, e rimangono lì congelati sotto ghiaccio. Con grande attenzione, perché non se mai andasse via la corrente e quelli si squagliano tutti, no? Bisogna avere dei sistemi di sicurezza e rimangono lì. Cosa ne faranno di questi embrioni? Beh, sono tante piccole M. Volendo, un domani uno se li prende, trova tante donne disponibili, sono tanti esseri umani che cammineranno in mezzo agli esseri umani, andranno a scuola, sorrideranno, giocheranno, saranno amabili o infami, avranno una vita ricca o una vita disgraziata, avranno altri figli, invecchieranno, ma sono diversi dagli altri. Ma a colpo d'occhio direi di no, sono come gli altri, esattamente come gli altri. Qual è il problema? Nello stesso centro dove è nata Emma, dove Emma è rimasta nel freezer per 25 anni prima che una donna se la prendesse in grembo e la facesse nascere, ne sono stati creati di esseri umani con questo sistema 700. Ma nel mondo quanti ce ne saranno di potenziali esseri umani messi nel freezer? È come se ci fosse un'umanità latente che cresce sempre di più. Possono essere decine di migliaia di esseri umani latenti. A fronte di tutto questo, a me questo mette una grande curiosità, una grande allegria, un gran senso di leggerezza, di libertà. Basta con queste storie di passionalità, di sentimento. Nasci il tale giorno e quindi la tua congiunzione astrale dirà che sei così. Emma quando è nata? Fatemi capire. È nata il novembre 2017 o è nata l'ottobre del 92? Quando hanno messo insieme qualcosa di un padre e una madre è venuto fuori questa cosa che è diventata Emma. Dici questa cosa, parli della vita. Beh, anch'io sono stato quella cosa, solo che non stavo in un freezer probabilmente, ma per un certo momento sono stato come Emma, uguale. E se voi incontraste Emma per strada fra 10 anni, 20 anni, 30 anni, cosa vi cambia? Magari ve ne innamorate, una bella ragazza, o una simpatica donna, o un'importante donna, o una qualsiasi donna che non passerà alla storia. Sempre Emma è quel cosettino piccolo messo sotto ghiaccio che oggi è un essere umano. Quindi non è pensabile che un domani l'umanità si toglierà questo fardello gravoso e pesante della gravidanza, della fecondazione, del senso del padre e della madre. Ci saranno dei grandi biobanche, uno va nella biobanca, vede, analizza la forma di investimento e poi nascono tante M o tanti Giovanni, tanti Luigi, tanti Chiappini, tanti Intonti, tante persone come le altre. 800240024, su questo vi voglio oggi. Nel Tennessee, negli Stati Uniti, è nata Emma. Emma è stata concepita in provetta il 14 ottobre 1992 e per 24 anni è stato un embrione crioconservato, fino a che è stata impiantata nella donna che poi l'ha avuta in gestazione e l'ha fatta nascere. Dunque Emma è stata concepita quando la sua madre attuale aveva solo un anno e mezzo. La bambina ora sta bene e crescerà come tutte le sue coetanee, proverà gioia e dolori come tutti gli esseri umani. L'unica differenza è che è stata concepita 24 anni prima della sua nascita. Che cosa proviamo rispetto all'idea che tra concepimento e nascita di un essere umano possono in teoria passare anche dei secoli? Chiamate all'800240024 e diteci se rispetto a questa idea voi siete 1. Passatisti assolutisti. La natura non si deve mai modificare in nessun modo, pena lo sconvolgimento dell'essere umano. 2. Possibilisti democratici, sia alle pratiche controllate che favoriscano la vita, anche se le conseguenze non sono sempre tutte prevedibili. 3. Anarcofuturisti, siete contro ogni regolamentazione. Per voi concepire oggi un embrione e scongelarlo tra 1000 anni è qualcosa di affascinante. 800240024, tre semplici categorie nel nostro sondaggio di oggi, ve le riassumo: il passatista assolutista, ah non si tocca, il disegno di Dio, la natura inviolabile, dove andremo a finire, si apriranno le caverne, usciranno i diavoli con i forconi e ci porteranno tutti via, faremo umanità di mostri, mostri perché sono stati congelati tanto tempo. Possibilisti democratici, sì, con un po' di regolamentazione, in modo che questi embrioni vengano classificati, organizzati, ci sia una limitazione, possono essere conservati, non so, diamo un limite, dopo 5.000 anni magari diciamo, vabbè, cambiamo perché l'umanità è cambiata, portare in vita un embrione di 5.000 anni, beh 5.000 anni, dico tanto, ma anche 100 anni, pensate un embrione messo sotto freezer 100 anni fa nasce oggi, sì è come noi oggi, sì, però il suo patrimonio genetico è due genitori 100 anni fa, come erano 100 anni fa gli uomini? Gli uomini bassetti, tarchiati, stempiatelli, coi baffoni, le donne come erano? Un po' chiattoncelle rispetto a oggi, con una sorta di genetico senso di subordinazione, beh nascerà con quel patrimonio o nascerà diversa. Anarcofuturisti, l'anarcofuturista è quello che dice no ma che ce ne importa, che bello, gli esseri umani sono come il Lego, come i fagioli, trovi una scatola con i fagioli degli aztechi, lo metti in una piantina, vengono fuori i fagioli, ci fai la pasta ai fagioli, lo stesso l'essere umano, prendi un embrione congelato 10.000 anni fa, lo tiri fuori, viene fuori un bello mettino, tranquillo, sarà un problema, si porranno fra 10.000 anni, ma sì ma aboliamo tutto, le donne non avranno più regole, saranno sregolate, a che servono le regole alle donne? Basta congelino i loro ovuli da qualche parte da bambine e poi quando vogliono i figli man mano se li vanno a prendere, trovano un donatore e fanno il figlio, questa è la posizione più estrema. Da che parte state voi? 800240024. Roberto, buongiorno Italo e complimenti e grazie di esistere per tutto quello che fai e come lo fai. Sì, va tutto bene, va tutto bene Roberto, solo che non mi chiamo Italo, non so a chi lei rivolge il suo ringraziamento, no, lo prendo per mio. Allora, allora Roberto, passatista su Tulis assolutista, no, possibilista, anarcofuturista. Ma guarda, la mia considerazione è forse di carattere ancora più generale, perché una persona è degna di esistere e basta, al di là della maniera con la quale viene concepita, e questo mi illuminò sentire uno che durante un diverbio piuttosto acceso disse al suo interlocutore: sei così stupido che secondo me sei stato concepito alla pecorina. Vabbè, suscitando le di lui ire più funeste. Sarebbe un insulto alla madre, vergognati, non si sì, insulta no, la madre. Quindi, le mamme non sono mai a pecorina, uno lo immagina sempre lì che a braccia aperte arriva l'angelo, zac, con la luce e nasci. Così esatto, pensiamo esatto. Le mamme. Quindi, se una bambina deve essere diversa perché è concepita in provetta, quanti di noi dovrebbero sentirsi diversi dagli altri a seconda della posizione con la quale sono stati concepiti? Tutto qua. E poi ci sono quelli concepiti, concepiti dall'idraulico, dal falegname, dal collega d'ufficio, quelli dove li mettiamo, che non li vogliamo avere lo stesso grado di dignità. Però rispondi al sondaggio, non eludere. Tu sei possibilista, quindi, possibilista democratico, direi? Assolutamente sì. Possibilista democratico, mi sta bene. Ivan, io vorrei dati scientificamente misurabili, sì. Numero privato, mi chiama, scusate, spengo il telefono. Chi mi chiama a quest'ora non mi conosce. Ivan, buongiorno. Sì. Pronto, buongiorno. Sì. Sento molto poco. Però dai, io ti sento, rispondi. Ah, molto bene. Ma io sono un possibilista democratico, come chi mi ha preceduto. Fermo restando che, sentendo il tuo, diciamo, la prefazione che hai fatto, sì, mi è venuto in mente, chiaramente, quando io sono diventato padre. Quindi tutto quello che è stato il pre, il fatto di pensare di avere un bambino, che poi era una bambina, il fatto di aver perso il primo bambino a 3 mesi da che era incinta la mia compagna e aver riprovato, quelle sono tutte parti che comunque hanno creato delle emozioni per me forti. E di quindi conseguenza... sei tentato a essere passatista, assolutista? No, io sono sempre stato molto a pro di tutto quello che la modernità e di quello che il progresso ci propone. Sono sicuro del fatto che non possiamo prevedere i risultati, quindi noi non sappiamo effettivamente se cambiare il sistema di far nascere un bambino o una bambina possa nel futuro creare dei problemi o creare un qualcuno che ha delle possibilità in più in meno rispetto agli altri. Questo non lo possiamo sapere. Non ce lo possiamo sapere, ma noi di solito ci avviamo verso la razionalizzazione dei nostri processi, l'evoluzione è questo. È chiaro che è più facile pensare che ci stanno tanti embrioni congelati e al momento, quando uno vuole fare un figlio, se lo prende e se lo innesta nel periodo che vuole, nel momento che vuole, considerato che ti prendi embrioni giovani. Oggi il vero problema è che noi facciamo figli da vecchi. A questo punto, congelando i nostri embrioni anche con la persona con cui vogliamo fare figli, nel momento della gioventù avremmo dei figli senz'altro migliori, potrebbe essere. Però ho capito la tua posizione. Francesco. Sì, ciao Gianluca. Cosa sei? Io il punto numero uno. Passatista, assolutista, esprimimi la tua convinzione. No, io dico soltanto una cosa, che se non vengono, non vengono. Ci sono tanti bimbi nel mondo che aspettano di essere adottati. Adottiamo i bimbi, leviamoli da far patire da fame. Sì, questa è la tua posizione, rispettabile. Però considera che al momento, allo stato delle cose, ci sono decine di migliaia di embrioni congelati, quindi già esiste comunque la possibilità del bambino che viene dal freddo. Questa è nata dopo 25 anni che era stata concepita, ma io immagino che ce ne saranno tanti, quindi è una fetta di umanità latente, surgelata, che prima o poi vedrà la luce in qualche maniera. E di fronte a questo come ti poni? Cioè, io ribadisco che non sono d'accordo, Nicoletti. Ecco. Sì, no, la natura è la natura e non va toccata. Ecco. Però sì, la natura, però noi ce la stiamo sovrascrivendo la natura in questo momento. Cioè, Emma, se tu la incontri per strada, accompagni tuo figlio a scuola, incontri una compagnuccia. Cioè, quella è Emma, quella che è nata 25 anni prima, cioè è stata concepita 25 anni prima che nascesse la madre. E tu cosa dici? No? Non la portare a casa, che magari no, è diversa. No, come è una persona come tutte le altre, per amor di Dio, quello sì. Vabbè, questa è la cosa importante. Claudio. Sì, buongiorno. Cosa sei te? Seconda categoria. Possibilista democratico. Sì, con dei dubbi. Cioè sì. Il primo è mettendosi nei panni dei genitori che hanno avuto parecchi anni fa questa possibilità e quindi hanno congelato i loro ovuli, cosa potrebbero fare in una situazione oggi completamente diversa, dove la mamma non può più innestare questo. Sì, però ti posso dire una cosa, funziona così almeno in quel centro americano. Una coppia 25 anni fa voleva un figlio, quindi ha congelato un numero di embrioni, ha avuto il figlio, gli altri hanno detto questi li lasciamo a voi, li darete a qualcuno che li vuole fra qualche anno. Sono passati 24 anni, quindi sì, perfetto. Quelli ormai non lo pretendono più l'embrione loro ormai hanno i loro figli, non gli interessa. Certo, Emma, no, ma io parlo di Italia, sì. Quindi dove ancora possono essere congelati, e i genitori il dubbio che si possono porre è quello di cosa farne. Non lo sa nessuno. Guarda, mi sono un po' documentato. In realtà, una volta che la mamma ha ottenuto, diciamo, di avere il figlio con i suoi embrioni congelati, quelli che avanzano sono in questa grande biobanca

passatisti assolutisti. La natura non si deve mai modificare in nessun modo, pena lo sconvolgimento dell'essere umano. 2. Possibilisti democratici, sia alle pratiche controllate che favoriscano la vita, anche se le conseguenze non sono sempre tutte prevedibili. 3. Anarcofuturisti. Siete contro ogni regolamentazione. Per voi concepire oggi un embrione e scongelarlo tra 1000 anni è qualcosa di affascinante. 800240024, come vi ponete di fronte al caso Emma? Vedo dagli sms atteggiamenti anche molto, molto empatici, ma anche molto di disprezzo nei confronti di solo trattare questo argomento. Nicoletti, che argomento di merda, ormai sei bollito. Non so quale sia il metro giudizio di questo ascoltatore. Cosa aspettano a defenestrarti a calci in culo? Vabbè, quando avrà la responsabilità di una radio, deciderà lui quali sono gli argomenti, quali sono le persone a tenere, quelle da buttare dalla finestra. Poi l'embrione, pensavate che l'embrione è soltanto un grumo indifferenziato di cellule, e invece l'embrione, avete visto, non è questo, è un essere umano, c'è la vita, e vabbè, lo so, la vita sta ovunque, basta mettere insieme le circostanze che poi diventi un essere umano finito. Roberto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. L'ascolto. Buongiorno Nicoletti e benvenuta Emma. Da che parte sta lei di queste tre categorie? Sono anarco-futurista, quindi la terza categoria, perché se le regole devono essere quelle di quell'obbrobrio della legge 40, meglio non avere regole, paradossalmente. Aggiungo due cosette, quindi gli embrioni vengono conservati a meno 200 in azoto liquido. Sì. Quindi questa giusto per era un'informazione tecnica. Ma lei è del mestiere, cioè lavora in questo settore? Un po' sì, nel senso che mi occupo delle apparecchiature scientifiche installate in questi laboratori. Quindi lei, diciamo, si occupa dei macchinari dei laboratori dove c'è anche l'azoto liquido per congelare gli embrioni? Non solo, sono anche papà di una bambina nata grazie alla fecondazione medicalmente assistita, quindi sono coinvolto da tutti e due i lati. Ha qualche informazione in più da darci rispetto a quello che abbiamo detto sui procedimenti, sulla conservazione, sulla legge per cui debbono sempre rimanere eternamente congelati? Come funziona questa cosa? Diciamo che non ho la competenza per descrivere certi processi in modo... Beh, chiaro, ma non è una trasmissione scientifica. Quello che vi posso dire è che, se vi ricordate, la legge 40... Sì. Ha determinato tutta una serie di distorture per cui la gente doveva poi ricorrere a pratiche in Spagna. Sì, perché diciamo la legge 90. 40 del 2004 esatto. Attribuisce al blastocisti la totale garanzia di essere umano a tutti gli effetti, quindi li tratta come essere umano. Poi se vi ricordate la limitazione dei tre, tutti e tre impiantati, sì. Con delle sorte anche di violenze in qualche modo che non stavano in cielo e in terra. Allora. Oggi pian piano questa legge è stata smantellata per le più parti e quindi la conservazione era prevalentemente degli embrioni ante la legge. Quindi questa cosa potrebbe anche avvenire pure da noi. Però quello che voglio invece... Quindi mi conferma visto che lei vende le apparecchiature, fa la manutenzione, che in Italia ce ne stanno parecchi di embrioni congelati, nessuno sa quanti. Sì, ce ne sono, sì, sono stati istituiti anche dei posti, dei siti dove andare a stoccare gli embrioni sovrannumerari che negli anni sono rimasti. Ma cosa ci fanno alla fine con tutti questi embrioni? Ma io spero che facciano la fine di Emma. Cioè dovrebbero perché dire a un certo punto ci ripopoliamo una parte del mondo dove non fanno più figli. Diciamo che paradossalmente pensiamo che se un domani per qualche problema genetico noi non dovessimo essere più in grado, non potessimo essere più in grado di procreare, è una banca di risorse genetiche utili. C'è un telefilm di fantascienza, a un certo punto l'umanità non può più fare figli e improvvisamente soltanto una donna riesce ad avere un bambino dopo non so quanti anni, è una rarità, devono preservarla perché nessuno aveva più figli, i figli erano diventati qualcosa. Quanti anni può durare un embrione criocongelato, secondo lei? In eterno, sì? Ma non so, credo che Emma sia la dimostrazione, no? Sì, sì, 25 anni. Se qualcosa rimane 25 anni rimane per sempre praticamente, finché c'è azoto rimane, sta lì, non succede niente. A meno 200 effettivamente non saprei fin dove si blocca ogni processo. Va bene, grazie. Però volevo spendere due parole invece sull'umanità delle persone che lavorano in questi posti. Cioè io arrivo da tecnico esterno e trovo una umanità di persone sensibili, amorevoli e niente, volevo solo pensare a loro. Sì, perché nessuno l'immagina poi chi maneggia questo materiale. Sono persone che hanno una particolare inclinazione a entrare nella delicatezza del processo della creazione di un essere umano. Non è una cosa che si può fare a cuor leggero. Anna, buongiorno. Buongiorno. Da che buongiorno. Parte sta? Quale delle nostre tre categorie? Dove si colloca? Ma io mi collocherei nel mezzo, però intellettualmente potrei essere anche un anarco-futurista. Sì. Anche da un punto di vista così scientifico, no? Come la sì. persona che mi ha preceduto, però poi la realtà mi fa temere che questi embrioni che già ci sono possono essere in un futuro utilizzati e manipolati da strutture senza scrupoli, non so, penso a militari piuttosto che cose scientifiche. Cioè, facciamo lo scenario più fantascientifico. Viene una dittatura terribile in Italia, facciamo conto, una dittatura terribile. Si accorge che ci sono decine di migliaia di esseri umani congelati, fa una sorta di campo di concentramento di donne in età feconda, le costringe a essere inseminate, fecondate, diventare i contenitori di questi embrioni, quindi comincia a coltivare una cultura di persone che poi sin dalla nascita le prende, le addestra a essere militari, soldati, spietati guardiani del regime, qualcosa del genere. Allora, l'umanità purtroppo ci ha insegnato di essere capaci di fare delle cose assolutamente orrende, certo. Per cui c'è questo dubbio. Però, uno se li ruba, magari li vende su Amazon al mercato nero. Li rubano pian piano, nella parte scura della rete, insieme alle droghe, alle cose oscene, vendono anche gli embrioni congelati e uno se li compra. Sì. Però quando nascono poi sono come me, come lei, questo è il fatto, non è che sono diversi, non è che hanno certo, un marchio, certo. Siamo uguali a noi. Però vabbè. In linea di massima direi che l'idea può essere anche bella, no? Cioè io quindi lei oscilla fra una posizione mediata e una posizione anarco-futurista. Bene, Giovanna, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono della prima categoria. Passatista assolutista, come mai? Sì, io di mio sono credente, però su queste questioni io tendo a giustificare, a basarmi sempre su quello che è la natura delle cose, quindi a rispettare le cose che vanno fatte secondo natura. Ma secondo natura cosa dice la natura in questo caso? Se ci riesci, ci riesci, se non ci riesci, non ci riesci. Io ho la fortuna di essere già mamma e lo sto per ridiventare, e lo dico, è una fortuna, ho avuto la fortuna di trovare un marito con cui fare i figli, un lavoro che me lo permettesse di fare, però allo stesso tempo non penso che siamo migliori di chi cerca di con l'inseminazione artificiale di rimanere. Cioè lei chi non ha figli deve rassegnarsi che non ci può avere figli senza problemi. Secondo me sì, ma non perché, saranno di sicuro dei genitori più responsabili magari di me, quelli che lo fanno dopo molti anni che l'hanno cercato e non ci sono riusciti e tutto quanto, però la cosa sbagliata è proprio la concezione che hai della vita, nel senso che ottieni una cosa che di natura non... che la natura non ti avrebbe dato, no? Ecco, adesso mi di fianco il carrello della frutta col megafono. No, non la voglio disturbare. No. Comunque è chiaro, la sua posizione è molto. Sento poco niente. No, la sua posizione è molto chiara. Inutile che posso farle mille esempi. Se stessimo alla natura, ne nascerebbero molto meno di bambini, ci sarebbero molte più malattie, molte più difficoltà. Noi siamo intervenuti molto su quella che era la cruda legge per cui rimangono solo i bambini che sono abbastanza robusti da potersi mantenere in vita, gli altri morivano prima, oggi abbiamo tante maniere. Comunque va bene, la sua posizione è chiara. Stefano. Senta, io appartengo alla terza categoria. Anarco-futurista. Anarco. Sì, perché pensavo che noi adesso parliamo con il cervello di oggi, ma nei viaggi intergalattici... Mm-hmm. Criocongelare l'embrione potrebbe servire il per minimo. Fare viaggi di decine di anni. È il minimo, se non ci si criocongela, lo dico, tutta la fantascienza lo dice. Esatto. Quindi potrebbe partire un'astronave stellare, esatto, con gli embrioni congelati. Man mano che le astronaute arrivano in età feconda, si fecondano, fanno i figli, poi muoiono le vecchie e rimangono questi, e quando arrivano in età, passando qualche milione di anni, si potrebbe portare avanti la specie umana. Esatto. È molto chiaro, è un anarco futurista, dei più avanzati. Ci fermiamo un istante. Melog. Chiamate all'800 24 00 24 e diteci se rispetto a questa idea voi siete 1. passatisti assolutisti. La natura non si deve mai modificare in nessun modo, pena lo sconvolgimento dell'essere umano. 2. Possibilisti democratici, sia alle pratiche controllate che favoriscano la vita, anche se le conseguenze non sono sempre tutte prevedibili. 3. Anarcofuturisti. Siete contro ogni regolamentazione. Per voi concepire oggi un embrione e scongelarlo tra 1000 anni è qualcosa di affascinante. È bello confrontarsi fra le punte estreme, fra i messaggi, le avvisaglie di un futuro affascinante come l'anarcofuturismo e le posizioni che sopravvivono ancora nell'arcacità più totale del pensiero, come l'ascoltatore che mi scrive un SMS tutto con lettere maiuscole. Se ci mettono a me a fare lo stallone da monta, sai quanti bambini nascono. Bello vivere in questa perenne illusione del proprio membro fecondante perenne. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Sì. Niente, io pensavo anche alle implicazioni genetiche future, nel senso che al giorno d'oggi i bambini concepiti adesso sono subito molto portati con l'elettronica e con le tecnologie moderne. Ce l'hanno già nel patrimonio genetico, secondo lei, fa parte? Sì, questa è un'evoluzione dell'essere umano, e quindi se noi concepiamo un bambino 50 anni prima, ovviamente il nascituro non avrà sicuramente No, lei per esempio, Emma giocherà con Ciccio Bello invece che con le brazze, ad esempio. Esatto. Vabbè, chiaro, ovviamente è un problema, potrebbe essere. Sì, potrebbe essere un problema, ovviamente su larga scala, però sicuramente un nascituro con una genetica, un patrimonio genetico anziano non avrà sicuramente... Beh, non è anziano, perché quando quell'embrione è stato concepito, cioè è stato messo insieme lo spermatozoo e l'ovulo, erano giovani i genitori, quindi viene fermato in un momento, immobilizzato in un momento che è un embrione giovane, non è un embrione anziano. È retrocessa la data del concepimento. Quindi se esiste una circostanza epigenetica, diciamo, per cui si trasmettono anche alcuni caratteri dati, non so, dal condizionamento del tempo, sì, può nascere un bambino che invece che la PlayStation vuole il meccano. Questo è l'ipotesi che mi viene più in mente, qualcosa del genere. Ma non so, può essere che dica una cazzata. Massimiliano, buongiorno. Ciao, buongiorno. Mi senti bene? Sì, benissimo, anche se sei in viva voce, infame, dai. Sì, è che sono sul furgone, non c'ho l'auricolare. Vabbè, dai, meglio che parli in viva voce che muori, dai. Da che parte stai? Appartengo anch'io alla terza categoria, quella degli anarcofuturisti. Oh, perfetto. Cos'è che ti affascina? Che ti affascina? A me mi affascina tutto. Ogni volta che viene abbattuta una regola etica, tecnologica, sociale, di ogni tipo, per me è sempre affascinante vedere l'evoluzione dei paradigmi sociali, chiamiamolo così. Beh, questo è il tipico atteggiamento anarcofuturista in pieno, sei. Assolutamente. Ecco, secondo te cosa potrebbe esserci diverso in questi bambini? Ho fatto gli esempi stupidi, vogliono il meccano invece che la PlayStation, perché sono stati concepiti 25 anni fa. Questo tipo di visione, che le capacità appartenessero all'epoca in cui vengono mamma concepiti. Fammi sentire i mitici Bee Gees, cose del genere, capito? Sì, può essere. Io penso che non sia dovuta a quello, per cui non penso che sia scartabile, anche se potrebbe essere un'ipotesi. Però sì, l'implicazione mi piaceva molto quella del viaggio interstellare, ovvero che vengono beh, certo, lo sai, chiaro, è normale. Un viaggio interstellare, se non c'è la cella per la criogenesi, non si può far nulla, e se non ci si congela non si va. Sia per adulti che per appunto gli embrioni. Certo. Vale tutto, anche come modifica i pezzettini, che potrebbero essere pezzettini genetici utilizzati per un futuro. Mi serve un braccio, lo impianto da un embrione. No, lei sta andando una cosa nazista. Tenere gli embrioni congelati per farci pezzi di ricambio. Sì, qualcuno ci ha pensato. Esiste tutta una narrativa romanzesca sui cloni. Ci hanno fatto film, libri, figuriamoci. Sono state. Però è brutto pensare che noi teniamo gli embrioni congelati per farci pezzi di ricambio per gli umani del futuro. Questo non è proprio bellissimo. Lucia. Buongiorno, salve. Sì. Io sono possibilista futurista, nel senso, certo, a metà. Sì, a metà, nel senso che tutte le implicazioni del fatto non si possono prevedere, resta il fatto che qualcuna si può vedere all'orizzonte, nel senso si parlava del patrimonio genetico che può essere vecchio, semplicemente potrebbe essere diverso e anzi potrebbe aiutare le generazioni future. No, non è vecchio, è diversa, è vintage il termine esatto, certo. Perché nascono... che sono persone concepite in un'altra epoca, questo, sono un po' vintage, magari cambiare peggio il genere umano, abbiamo gli embrioni congelati che possono ricorrere in soccorso e dire no, noi abbiamo ancora... No, io le faccio l'esempio più probabile, metta caso, esplode un'epidemia zombie, come si salva l'umanità? Solo con gli embrioni congelati, se no gli altri sono tutti zombie. Faccio l'esempio in cui potrebbe avere un'utilità questa cosa qua. Epidemia zombie lo dico come paradosso, ma l'umanità viene fortemente compromessa nel suo patrimonio genetico e quindi a un certo punto bisogna prendere gli embrioni. Il problema sarà trovare una donna per impiantarli, ma troveranno magari un sistema artificiale di impianto in cui li faranno crescere lo stesso anche senza bisogno di una donna, perché le incubatrici esistono, però chiaro, l'embrione è un po' poco. Laura. Buongiorno. Stiamo lavorando, allora, stiamo lavorando terzo gruppo. No, Laura, stiamo lavorando di fantasia, non vorrei far passare l'idea che sono impazzito. Però sto ragionando a voce alta su quello che potrebbe essere lo scenario. Allora, terzo gruppo, anche perché sarebbe bellissimo vedere questi ragazzi, il comportamento di questi ragazzi, perché la cultura rimane nei nostri geni. Questo è un vecchio esperimento che io mi ricordo studiando fisiologia, ho trovato, cioè che le amebe, se tu le sottoponi a degli stimoli vari, imparano un certo tipo di reazione. Parliamo di amebe, quindi elementi praticamente monocellulari. Le figlie delle amebe sanno reagire a questi stimoli senza che siano state sottoposte a questi stimoli medesimi. Secondo me ancora è troppo breve il lasso di tempo, 25 anni, quando cominceremo a parlare di secoli forse qualcosina di diverso potremmo vedere, un embrione di 3-4 secoli fa può essere, non si sa, non si immagina, non lo so, è difficile pensarlo con gli strumenti limitati che ho a disposizione, però fa pensare il fatto che comunque sia è un embrione concepito in un'altra epoca in cui il tempo era diverso, la concezione del tempo era diversa, in cui gli uomini avevano menti diverse. Esatto. È interessante, interessante, senz'altro è interessante. Sì. Sì, ma non è detto che sarebbero meno bravi dei nuovi, perché magari hanno delle capacità di riflessione superiori, che questo, mano a mano l'uomo sta perdendo. Quello non lo possiamo dire, però sta di fatto vedo che comunque nessuno si è scandalizzato in maniera così veemente. Questo mi fa pensare che in realtà l'umanità è già pronta per questo salto. Quando l'uomo fa qualcosa, costruisce qualcosa nei laboratori, vuol dire che in genere, rispetto a una fetta di pregiudizio totale rispetto a tutto ciò che è nuovo, è già pronto per il passo evolutivo successivo, che potrebbe essere quello di abbandonare, abbattere tutto l'impianto emotivo, sentimentale, religioso che sta attorno al fatto del controllo della nascita e pensare alla nascita come semplicemente la semina di un fiore, di una pianta, di un ortaggio, così anche nasce un essere umano. Mamma mia, per questo meriterò l'inferno sicuramente. Alla prossima.